Padre Coffee. Sapevo che il nome era qualcosa come bara. Domine, namine. Ha un muso da prepotente. È padrone del vapore. Cristiano lottatore. Male incolga a chi lo guarda torto. Prete, tu sei Pietro. Scoppierai i fianchi come una pecora tra il trifoglio, lo dice Daedalus, con una pancia come un cucciolo avvelenato. Le espressioni divertenti che trova quel Daedalus. Scoppierà i fianchi. Non intras in iudicium cum servo tuo, Domine. Li fa sentire più importante il pregarci sopra in latino. Messa da requiem, nastri di crespo, carta da lettere orlata di nero. Il tuo nome nella lista. Fa freddo qui. Bisogna che mangino bene per star seduti tutta la mattina là dentro all'oscuro a non far niente e aspettare il successivo, prego. Anche gli occhi da rospo. Cosa sarà che lo gonfia in quel modo? Molly si gonfia quando mangia cavoli. Forse è l'aria del posto. Sembra pieno di gas malsano. Ci deve essere un'ira di Dio di gas malsano in giro. I macellai, per esempio, assomigliano a bistecche crude. Chi me lo diceva? Marvin Brown, nella cripta di St. Wilburg, un bell'organo antico, 150. Devono fare buchi nelle bare a volte per far uscire il gas e bruciarlo. Scappa fuori, azzurro. Una zaffata e sei fritto. Mi fa male la rotula. Ai, ora va meglio. Il prete prese una bacchetta con una sfera in cima dal secchiello del ragazzo e la scosse sopra la bara. Poi andò all'altro capo e la scosse di nuovo. Poi tornò indietro e la rimise nel secchiello. Al tempo, riposo. È tutto scritto. È tenuto a farlo. Et ne nos inducas in tentationem. Il chierico modulava le risposte in falsetto. Ho pensato spesso che sarebbe meglio aver domestici maschi, fino ai 15 anni o giù di lì. Dopodiché, naturalmente. Quella era acqua santa, immagino. Spruzzano sonno da quel coso. Deve averne le tasche piene di quel lavoro, scuoter quell'aggeggio su tutti i cadaveri che gli mettono sotto. Se vedesse su che cosa lo scuote, che male ci sarebbe? Ogni dì che Dio manda in terra un'altra infornata. Uomini di mezza età, vecchie, bambini, donne morte di parto, uomini con la barba, commercianti calvi, ragazze tisiche con petti da passerotto. Per tutto l'anno ha pregato le stesse cose su tutti e ha spruzzato acqua su di loro. Sonno. Su Dignam, adesso. In paradisum. Detto che andava in paradiso, o che è in paradiso, lo dice per tutti. Lavoro seccante, ma deve pur dire qualcosa. Il prete chiuse il libro e se ne andò, seguito dal chierichetto. Corny Keller aprì le porte laterali e gli affossatori entrarono, si misero di nuovo la bara sulle spalle, la portarono fuori e la spinsero sulla loro carretta. Corny Keller dette una corona al ragazzo e una al cognato. Tutti li seguirono fuori dalle porte laterali nella mite aria grigia. Mr. Bloom uscì per ultimo, rimettendosi in tasca il giornale piegato. Tenne gli occhi gravemente abbassati finché la carretta non girò a sinistra. Le ruote di metallo stridevano sulla ghiaia con un cigolio acuto e lamentoso, e la muta di stivali quadrati seguì la carriola sballottata lungo un sentiero fiancheggiato da sepolcri. La rillara, la rillara, la ra. Mio Dio, qui non devo canterellare. La rotonda O'Connell, disse Mr. Dedalus a quelli intorno a lui. Gli occhi teneri di Mr. Power si alzarono fino alla punta dell'alto obelisco. Riposa, Disse. in mezzo alla sua gente, il vecchio Dano, ma il suo cuore è sepolto a Roma. Quanti cuori infranti sono sepolti qui, Simon? La tomba di lei è laggiù, Jack, disse Mr. Dedalus. Presto sarò disteso accanto a lei. Che egli mi chiami quando a lui piacerà. Cedendo all'emozione, cominciò a piangere silenziosamente tra sé, incespicando di tanto in tanto. Mr. Power lo prese per un braccio. Sta meglio dov'è ora, disse gentilmente. Lo credo. disse Mr. Dedalus con un lieve singulto. Credo che sia in cielo, se il cielo esiste. Corny Keller uscì dalla fila e lasciò che gli altri gli passassero accanto. Triste circostanza, cominciò cortesemente Mr. Kernan. Mr. Bloom chiuse gli occhi e abbassò due volte la testa con punto. Gli altri si stanno rimettendo il cappello, disse Mr. Kernan. Mi sembra che potremmo farlo anche noi. Siamo gli ultimi. Questo cimitero è traditore. Si coprirono. Il reverendo ha letto la funzione troppo alla svelta, non le pare? Disse Mr. Kernan con aria di rimprovero. Mr. Bloom annuì gravemente, fissando quegli occhi vivaci iniettati di sangue. Occhi segreti. Segreti e scrutatori. Massone, credo. Non sono sicuro. Ancora accanto a lui, siamo gli ultimi. Nella stessa barca. Spero che dica qualcos'altro. Mr. Kernan aggiunse. La funzione della chiesa irlandese a Mount Jerome è più semplice, più suggestiva, direi. Mr. Bloom assentì prudentemente. La lingua, naturalmente, era un'altra cosa. Mr. Kernan disse con una certa solennità. Io sono la resurrezione e la vita. Ti tocca nel più profondo del cuore. È vero, disse Mr. Bloom. Il tuo cuore, forse. Ma che gliene importa il disgraziato tra quattro assi, sei piedi per due e coi piedi sotto le margheritine? Niente da toccare. La sede degli affetti. Cuore infranto. Una pompa, dopo tutto, che pompa tutto il giorno migliaia di galloni di sangue. Un bel giorno si tappa e ci siamo. Ce n'è un sacco distesi qui intorno. Polmoni, cuori, fegati, vecchie pompe arrugginite. Al diavolo tutto il resto. La risurrezione e la vita. Quando sei morto, sei morto. Quell'idea dell'ultimo giorno, farli saltar tutti fuori dalle tombe. Sorgi, Lazzaro, e cammina. E lui invece fermo. Alzatevi, l'ultimo giorno. E poi ognuno a cercarsi il fegato e le budella e tutti gli annessi e connessi. Ritrovare tutto quanto se stesso dell'accidente quel giorno. Un Pennywhite di polvere in un cranio. 12 grammi un Pennywhite. Peso della scala Troy. Corny Keller si mise al passo al loro fianco. Tutto è andato come l'olio, disse. No? Li guardava con l'occhio sonnacchioso, spalle da pizzardone. Con il tuo trallallero trallallà. Come doveva, disse Mr. Kernan. Cosa? Eh? Disse Corny Keller. Mr. Kernan lo rassicurò. «Chi è quel tale dietro con Tom Kernan?» chiese John Henry Menton. «Lo conosco di vista.» Ned Lambert diede un'occhiata indietro. «Bloom!» disse. «Madame Marion Tweedy, che era, voglio dire, un soprano, è sua moglie.» «Ah, già!» disse John Henry Menton. «Non la vedo da un po' di tempo. Era una bella donna. Ho ballato con lei, vediamo.» La bellezza di 15-17 anni fa, da Matt Dillon a Round Town. Era un bel tocco di donna. Guardò dietro, al di là degli altri. «Lui cos'è?» chiese. «Che fa? Non si occupava di cartoleria? Una sera ho avuto a che dire con lui, mi ricordo, giocando a bocce.» Ned Lambert sorrise. «Sì», disse, «fu da Winston Healy, piazzista di carta assorbente.» «In nome di Dio», disse John Henry Menton, «che si è sposata a fare con un ghiozzo come quello. Aveva parecchi numeri lei a quel tempo.» «Ne ha ancora», disse Ned Lambert. «Lui fa il piazzista di inserzioni pubblicitarie.» I grandi occhi di John Henry Menton guardarono avanti. La carriola girò in un sentiero laterale. Un uomo corpulento, in agguato tra l'erba alta, si levò reverente il cappello. Gli affossatori si toccarono il berretto. «John O'Connell», disse Mr. Power, soddisfatto. «Non dimentica mai un amico.» Mr. O'Connell strinse la mano a tutti, in silenzio. Mr. Dedalus disse: «Sono venuto a fargli un'altra visita.» «Caro Simon», disse il custode a bassa voce, «non le auguro davvero d'essere mio cliente.» Salutando Ned Lambert e John Henry Menton, si incamminò a fianco di Martin Cunningham, giocherellando con due chiavi dietro la schiena. «Avete sentito?» chiese loro. «Quella su Malca e di Combo?» Io no, disse Martin Cunningham. Inclinarono i cilindri all'unisono e Heinz tese l'orecchio. Il custode appese i pollici alla catena d'oro dell'orologio e si rivolse con voce discreta ai loro sorrisi vacui. Si racconta, disse, che due ubriachi venissero qua una sera in cerca della tomba di un loro amico. Chiesero di Malachi de Combe e fu loro detto dove era sepolto. Dopo aver vagato un po' nella nebbia, trovarono la tomba senza fallo. Uno degli ubriachi decifrò il nome: Terence Malachi. L'altro ubriaco squadrava una statua del Salvatore fatta erigere dalla vedova. Il custode squadrò una delle tombe cui stavano passando accanto. Riprese a dire: E dopo aver squadrato la sacra immagine, non gli somiglia un accidente, dice. Non è Malachi questo, dice, chiunque l'abbia fatta. Ricompensato da sorrisi, rimase indietro a parlare con Corny Keller, ricevendo da lui alcune schede che rivoltava e verificava nel camminare. Tutto questo lo fa con uno scopo preciso, spiegò Martin Cunningham a Heinz. Lo so, disse Heinz, lo so bene. Per tenere sul morale, disse Martin Cunningham, è pura bontà di cuore. Al diavolo se non è così. Mister Bloom ammirava la massa imponente del custode. Tutti ci tengono a essere in buoni rapporti con lui. Brava persona, John O'Connell, davvero un bravo uomo. Chiavi, come l'inserzione della ditta Case. Non c'è pericolo che uno scappi, niente controlli all'uscita. Habeat corpus. Devo pensare a quell'inserzione dopo il funerale. Ho scritto Ballsbridge sulla busta che ho preso per coprire quando lei mi ha disturbato mentre scrivevo a Marta. Speriamo che non sia insabbiata nel reparto lettere smarrite. Farebbe meglio a farsi la barba. Barba grigia e dura. È il primo segno quando i capelli diventano grigi. E il carattere si inacidisce. Fili d'argento in mezzo ai grigi. Figurati essere sua moglie. C'è da domandarsi come ebbe la faccia di dichiararsi a una ragazza. O un cuore o un cimitero. Farglielo brillare davanti agli occhi. Potrebbe anche stuzzicarla da principio. Fare la corte alla morte. Le ombre della notte aleggiano intorno con tutti i morti stesi di qua e di là. Le ombre delle tombe, quando i cimiteri sbadigliano. E Daniel O'Connell deve essere un discendente, credo. Chi è che diceva che era un bel tipo di stallone, gran cattolico, lo stesso come un colosso nell'oscurità? Fuochi fatui, gas delle tombe. Bisogna non ci pensi mai se vuol rimanere incinta. Le donne, poi, sono così suscettibili. Raccontarle una storia di fantasmi a letto per farla dormire. Hai mai visto un fantasma? Beh, io sì. Era una notte buia come un forno. L'orologio stava per battere la mezzanotte. Capaci di baciare lo stesso se sono eccitate a dovere. Prostitute nei cimiteri turchi. Imparano qualunque cosa se si prendono giovani. Si può anche pescare una vedovella qui. Gli uomini sono fatti così. Amore tra le tombe. Romeo, salsa piccante del piacere. Nel mezzo della morte siamo in vita. Gli estremi si toccano. Supplizio di Tantalo per i poveri morti. Odore di bracioli alla graticola per morti di fame. Si divorano le viscere. Desiderio di titillare la gente. Molly lo voleva fare alla finestra. Comunque ne ha 8 di figli. Ne ha visti andare sottoterra un bel po' ai suoi giorni, riempire i campi intorno, l'uno dopo l'altro. Campi santi. Più spazio se li seppellissero in piedi. A sedere o in ginocchio non si può. In piedi? Potrebbe anche darsi che la testa affiorasse un giorno per una frana con un dito puntato. Deve essere come un alveare il terreno. Cellette oblunghe, e lo tiene anche per benino, erba pari pari e orli alle aiuole. Il suo giardino, il maggiore Gamble, lo chiama Mount Jerome. E così è, dovrebbero essere i fiori del sonno. I cimiteri cinesi, con piantagioni di papaveri giganti, producono il miglior oppio, m'ha detto Mastianski. L'orto botanico è subito dietro. Il sangue succhiato dalla terra dà una nuova vita. La stessa idea di quegli ebrei che si diceva avessero ucciso un ragazzo cristiano. Ogni uomo ha il suo prezzo. Cadavere grasso di signore, ben conservato, un epicureo, prezioso per un frutteto, un affare. Per la carcassa di William Wilkinson, revisore contabile, recentemente defunto, 3 sterline, 13 scellini e 6 pence, con ringraziamenti. Penso che il terreno si ingrasserebbe bene concimato di cadaveri, ossa, carne, unghie, fosse comuni, spaventoso. Diventa rosa e verde decomponendosi. Va in putrefazione presto nel terreno umido. I vecchi magri più duri. Poi una specie di impasto segoso, una specie di formaggio. Poi cominciano a diventare neri e ne cola fuori una melassa nera. Poi rinsecchiti, farfalle dei morti. Naturalmente le cellule, o come diavolo si chiamano, seguitano a vivere, si ricombinano. Praticamente non smettono mai di vivere. Niente da mangiare, mangiano se stesse. Devono generare un fottio di vermi. Il terreno ne deve pullulare. La testa te la fa proprio girare. Quelle belle ragazze in riva al mare. Dopotutto sembra abbastanza allegro, gli dà un senso di superiorità a veder gli altri andare sottoterra per primi. Chissà come vede la vita. E gli piace anche raccontare barzellette, gli riscalda le valvole del cuore. Quella del bollettino, sparge un partito per il cielo, stamani alle 4 antimeridiane, 11 di sera, ora di chiusura, non ancora arrivato. Pietro. Ai morti, poi, agli uomini almeno, piacerebbe sentire una barzelletta o due, e le donne sapere le ultime sulla moda. Una pera sugosa o un ponce per signore, caldo, forte, zuccherato, contro l'umidità. 2 risate bisogna pur farle, quindi meglio farle così. I becchini dell'Amleto. Dimostra la profonda conoscenza del cuore umano. Non osano scherzare con i morti per almeno 2 anni. De mortuis nil nisi prius. Prima uscire di lutto. Difficile immaginarsi il suo funerale. Sembra uno scherzo. Leggere il proprio annuncio mortuario dice che allunga la vita. Ti fa riprendere fiato. Nuova erogazione di vita. Quanti ne ha per domani? Chiese il custode. 2, disse Corny Keller. 10:30 e 11. Il custode si mise i fogli in tasca. La carriola aveva smesso di rotolare, il gruppo si divise in 2 e gli accompagnatori si disposero ai 2 lati della fossa, cercando accuratamente di evitare le tombe. Gli affossatori portarono la bara e ne posarono la testata sull'orlo, avvolgendo intorno le funi. Seppellirlo. Siamo venuti a seppellire Cesare. Le suidi di marzo o di giugno. Non si sa chi c'è e non gliene importa. Ma chi è quello spilungone laggiù col Macintosh? Chi è, vorrei sapere. Pagherei qualche cosa per sapere chi è. Spunta fuori sempre qualcuno che non ti sognavi neanche. Uno potrebbe vivere del suo buco solo tutta la vita, sì, certo, ma avrebbe sempre bisogno di qualcuno per calarlo nella fossa, anche se la fosse scavata con le sue mani. Tutti lo facciamo. Solo l'uomo seppellisce i morti. No, anche le formiche. Quel che colpisce subito, seppellire i morti. Dicono che Robinson Crusoe è realistico. Bene, allora lo seppellì venerdì. Ogni venerdì seppellisce un giovedì, a pensarci bene. Robinson mio poveretto, come hai fatto, solo soletto.